con Paola Di Blasi di Librerie di Roma per presentare l'evento Librerie di Roma in Festa a Roma alla Tevere Art Gallery martedì 25 giugno 2019. Paola, ben trovata. Buongiorno. Raccontiamo intanto cosa sono le Librerie di Roma. Le librerie di Roma sono 40 librai indipendenti che hanno deciso di fare gruppo, che hanno deciso di fare gruppo, che hanno partecipato a un bando e hanno vinto un bando e stanno realizzando una serie di cose in comune, soprattutto un'app che collegherà tutte le librerie per vedere i libri che sono a disposizione nelle 40 librerie. Quando è nato questo gruppo e quali tipi di iniziative avete messo in campo? Il gruppo nasce da fine 2017, solo ora si sente un pochino di più parlare di noi perché in questi 2 anni abbiamo fatto un po' di cose e stiamo finendo di realizzare il tutto, il punto l'app e tutto il resto. Iniziative fatte. Abbiamo partecipato a iniziative tipo la Fiera più Libri più Liberi, abbiamo partecipato a Castel Sant'Angelo, abbiamo partecipato a tutte le manifestazioni che si sono svolte a Roma, sia come gruppo proprio di librerie, sia più o meno individualmente. Adesso possiamo definirci più gruppo. Se non sbaglio, sta per nascere un portale, c'è stata anche una campagna di crowdfunding. Esatto, c'è cioè una campagna di crowdfunding. Proprio per sostenerci, perché in un momento difficile come questo, in cui sono più le librerie che chiudono che non quelle che rimangono aperte, abbiamo deciso di incentivare questa cosa appunto attraverso un crowdfunding per sostenerci e per sensibilizzare tutti su questa necessità di mantenere in piedi le librerie come appunto presidio culturale. Quali sono le maggiori rivendicazioni rispetto a questo problema? Cosa chiedono, cosa vorrebbero le librerie di Roma? Vogliono semplicemente poter lavorare tranquillamente come appunto presidi culturali, non chiedono nient'altro, di poter fare appunto il loro lavoro senza avere insomma troppa burocrazia o troppi nemici davanti, quali grandi colossi, insomma, ecco. Perché noi soffriamo dell'online, soffriamo di tutte queste cose qui, ma poi vogliamo niente di più di questo, insomma, semplicemente rimanere in piedi, potendo lavorare, facendo il nostro lavoro. Tutto qui. È una rete che si sta allargando? È una rete che deve allargarsi assolutamente. Il nostro scopo è proprio quello di essere sempre di più e far partecipare tutti i librai romani a questa rete, tutti coloro che vogliono, ovviamente. Ci sono stati incontri con l'amministrazione? Certo. Ci sono stati incontri anche con le amministrazioni. Grazie a questo bando abbiamo avuto contatti con Comune e Regione, per cui ci sono stati anche incontri per anche rivendicare le nostre necessità e le nostre difficoltà soprattutto. Che tipo di atteggiamento avete trovato? Dipende dalle persone con le quali abbiamo parlato, però molte hanno ascoltato. Nessuno ci ha promesso niente, ma molte hanno ascoltato. Nessuno poteva farci nessuna promessa e speriamo che qualcosa sia entrato. Ci racconti anche un po' dell'evento di martedì 25? L'evento di martedì 25 è la presentazione del nostro gruppo a cui parteciperanno tantissime persone. Avremo l'onore di avere Neri Marco Re che verrà a partecipare a questa manifestazione e si parlerà un po' di librerie, una festa. E c'è già un calendario dei prossimi eventi? Lo stiamo iniziando a inserire adesso sull'app e sul sito. Stiamo iniziando a fare tutta una serie di eventi che pubblichiamo sul sito, anche perché a questo punto tutti gli eventi di ogni singola libreria vengono appunto pubblicizzati e hanno una più ampia visibilità. In chiusura, ci lasci dei riferimenti web per sapere maggiori informazioni? Il sito è www.librerie-di-roma.it. E l'app da Google Play si scarica Librerie di Roma e la pagina Facebook, Bene, certo, sempre bene. Librerie di Roma. Allora ricordiamo l'evento Librerie di Roma in Festa a Roma, alla Tevere Art Gallery, martedì 25 giugno 2019. Un saluto e un ringraziamento a Paola Di Blasi di Librerie di Roma. Un abbraccio, in bocca al lupo, ci si vede lì. Grazie, ciao.